9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, torno a dire buon primo aprile. Ogni tanto bisogna avere anche una nota più ridanciana. Sicuramente oggi molti italiani troveranno il modo di far arrabbiare tanti altri italiani con un primo aprile che spero comunque contenuto nella misura della giusta goliardia senza eccessi personali. Ma detto questo, invece, oggi tema serio e lo facciamo con pieno rispetto degli elettori che hanno votato per questa parte e soprattutto in uno spirito di comprensione reciproca, perché un paese per essere equilibratamente e ben governato ha bisogno certo di una maggioranza e di un governo capace di fare e oltre che di promettere, e poi ha bisogno di un'opposizione solida, un'opposizione con le idee chiare, capace di incalzare e di rappresentare bene delle istanze che possono di volta in volta non aver trovato successo al voto, ma che nella loro rappresentanza trasparente, chiara e con un meccanismo di evidente corrispondenza tra ciò che sono le istanze della società e chi le porta nelle sedi istituzionali, contribuisce a una forza essenziale, a un equilibrio istituzionale del paese. Senza equilibrio istituzionale, lo abbiamo visto in questi 16 anni, il paese è un po' scazzonte, va avanti e però come coloro che sono affetti da zoppia, per esempio il sottoscritto che c'ha un bastone, e si fa un po' più fatica, molta più fatica, a volte si rischia di cadere. Ecco, per questo ci occupiamo del tema che Repubblica oggi ha deciso di mettere addirittura come apertura del suo giornale, secondo me un po' drammatizzando Repubblica, come sempre è abituata un po' a fare. Nel PD assedio a Bersani è il titolo che troverete oggi su Repubblica, e io la faccio molto breve oggi perché passo immediatamente la parola agli ospiti. Mi ha molto colpito tuttavia un aspetto essenziale nella lettura dei dati che sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, non ve li devo riportare, dell'andamento del PD alle elezioni. È ovvio che le aspettative erano un po' diverse, è ovvio che c'è un grande problema che si è esteso di rappresentanza a nord per il successo poi del centrodestra anche in Piemonte, sia pur solo per 4.000 voti, e c'è un problema di successione di leadership rispetto ai leader precedenti, il poco tempo che ha avuto Bersani e la necessità di non poter chiarire troppo bene, di tenere insieme un po' pezzi anche un po' discordanti di strategia. Ma detto tutto questo, quello che mi ha colpito, ed è l'unica riflessione che voglio fare prima di presentarvi gli ospiti, è vedere come subito i giornali, che sono una componente essenziale nell'orientare, nell'influenzare la sinistra e a propria volta il PD, abbiano avuto un ruolo di reciproca additarsi le responsabilità. Perché cosa è avvenuto? È avvenuto che ieri Il Fatto, che è una testata che in questi mesi dallo scorso autunno ha avuto crescente peso nell'orientare la parte radicale, antagonista, anti-berlusconiana, ma insomma quella di pancia, ecco, successo editoriale anche della sinistra, ha subito puntato il dito rievocando Moretti, lo ricordate, di Piazza Navona di tanti anni fa, dicendo: con questi non vinceremo mai. E con questi Il Fatto ha indicato nelle fotografie e poi negli scritti i leader diversi succedutisi alla testa del PD, compreso Bersani, però invocando quel cambio di marcia, per così dire, e quel cambio di facce che si vede dietro il successo di Vendola, ma non solo dietro il successo di Vendola. Chi ha ascoltato ieri De Magistris, dell'Italia dei Valori a Tetris, ha sentito argomentare come bisogna cambiare faccia, fare un cambio verso questi temi che invece raccolgono poi i consensi che hanno confermato più che rafforzato le liste di Di Pietro e soprattutto tutto poi portato all'Expo, alle liste dei grillini in alcune regioni, l'Emilia Romagna, sono stati decisivi per la sconfitta della sinistra in Piemonte e così via. Invece, che cosa dice Il Riformista oggi? Con questi giornali la sinistra non vincerà mai, accusando da una parte Repubblica di aver lanciato il tema di una specie di opa ostile sul PD, indicando la necessità di un nuovo leader, una specie di papa straniero, dice Il Riformista di oggi. In effetti potrà sembrare una tesi eccessiva anche quella del Riformista, però oggi Repubblica apre nel PD assedio a Bersani. Io non so se si tratti di un assedio, so che comunque iniziamo parlando proprio dell'iniziativa che oggi trovate in apertura su Repubblica, cioè di questa lettera che hanno firmato 49 senatori del PD, e abbiamo con noi, io vi presento gli ospiti, inizio proprio con colui che ha promosso questa iniziativa e chiederemo a lui di spiegarci se davvero è un assedio o se invece è una richiesta semplicemente di riflessione con alcuni punti di chiarezza. Assedio a me pare troppo, però facciamolo dire al promotore. Abbiamo con noi Giampiero Scanu, che è senatore del PD, già sottosegretario di Stato ai tempi del governo Prodi per le riforme. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Ecco, presento gli altri ospiti che ci seguono in trasmissione. Abbiamo il segretario regionale del PD del Piemonte, Gianfranco Morgando. Buongiorno. Buongiorno Morgando. E poi abbiamo Paolo Franchi, dietro la lista del Corriere della Sera. Buongiorno Franchi. Buongiorno. E Riccardo Barenghi, editorialista della Stampa La Iena. Buongiorno Barenghi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, senatore Scanu, ci spiega, è un assedio? Ma non lo so, io direi di no, però dica lei, di che si tratta, qual è l'obiettivo? Ma innanzitutto non si tratta di un assedio, ma non si tratta neppure di un'azione ostile che potrebbe essere considerata meno incisiva di un assedio. Si tratta semplicemente, anche se questo avverbio andrebbe declinato con tutta una serie di dettagli, di una consapevole presa di posizione di 49 senatori che hanno ritenuto di dover rappresentare per iscritto, innanzitutto ponendo in discussione se stessi, esercitando quindi quella poco frequente attitudine che è l'autocritica, e che ritengono, appunto, dopo aver esercitato l'autocritica, di sviluppare alcune considerazioni sugli atteggiamenti, costumi, ma perfino sul profilo, addirittura sulla stessa anima del militante democratico. Tant'è che nella lettera, dopo aver chiesto a Bersani un incontro che ci sarà subito dopo Pasqua per esplicita accettazione dello stesso segretario, noi sviluppiamo alcune considerazioni. Diciamo che i tempi della politica, per come li stiamo vivendo, non bastano, che le liturgie alle quali ci sottoponiamo sono stantie e che spesso la nostra azione politica gabbellata come azione riformistica nasconde delle trasversalità che non possono essere più accettate, non possono essere più coperte. Ora, che ci fosse un certo malessere all'interno del partito, inteso però soprattutto come incompiutezza di un discorso politico, non mi pare che sia una novità. Forse è una novità il fatto che, uscendo, visto che siamo in Giovedì Santo, dai sinedri della politica, ci si pone di fronte alla necessità di dire: qua bisogna cambiare passo, qua bisogna ricordare a noi stessi, ma a chi chiede liberamente di entrare a far parte di questo partito, che il nostro non è un partito privo di un'anima. Il nostro è un partito che è il frutto dell'incontro di tre culture, quella di ispirazione cristiana, di ispirazione socialista, di ispirazione ambientalista, aggiungiamo complessivamente quella riformista, che dunque il nostro partito ha dei postulati ben precisi che lo rendono un partito progressista, e che il riformismo di cui noi parliamo deve essere declinato all'interno di questo progressismo. Dunque siamo un partito popolare, siamo un partito legato intimamente, indissolubilmente alla Costituzione, siamo il partito dell'articolo 3 della Costituzione che si batte per l'eguaglianza, siamo il partito della garanzia di tutti i diritti costituzionali. Ecco, c'è stata a nostro avviso una certa mollezza sia nell'esercizio dell'attività di opposizione, laddove siamo all'opposizione, sia anche nello svolgimento delle attività di governo, laddove siamo in maggioranza, che non ha permesso alla società civile di vedere quello che è il nostro senso, segno di contraddizione. Oggi, senza essere provocatore, voglio usare un linguaggio consono al Giovedì Santo, dovremmo essere la pietra d'inciampo, intesa come manifestazione di un'alterità rispetto ad una politica fatta soltanto di abbuffate e di potere. E invece questo non sempre accade, spesso veniamo confusi fra i cosiddetti politicanti non c'è alcun tipo di caratterizzazione riguardo alla nostra effettiva semenza, e così non si può andare avanti, perché in questi due anni di legislatura sia alla Camera che al Senato naturalmente abbiamo soltanto convertito in legge i decreti di Berlusconi, o abbiamo espresso quasi in maniera patetica la nostra sfiducia tutte le volte che ci è stato chiesto di farla, ma le iniziative parlamentari, legislative, di iniziativa appunto parlamentare non ci sono state, dunque c'è uno svilimento oggettivo, e sottolineo questa espressione, che ci induce a dire che stiamo vivendo un'emergenza democratica. Allora, nell'emergenza democratica non si possono indossare le scarpe da ballo. Ora, io le ho dato appunto minuti per far esprimere e apprezzare il tono, insomma, anche secondo me questo non è il tono di un assediante, è il tono di chi esprime a nome di Culture e di rappresentante del partito, dice: beh, vi abbiamo seguito in questi mesi, abbiamo accettato la logica emergenziale della nuova leadership che arrivava e del confronto elettorale, però adesso dobbiamo fare una riflessione chiara e cambio di passo. Non è che io non sento qua cambi di faccia, vattene eccetera eccetera, sento un tono serio e preoccupato, e mi sembra, devo dire, commisurato anche all'esito del voto. Io non so se Scano ci può restare con noi, mi auguro di sì, ma a Morgando voglio subito girare invece un po' di domande concrete che riguardano il Nord, inevitabilmente, ma non solo il Nord. Innanzitutto le chiedo se ha letto l'intervista di Walter Veltroni oggi su Repubblica, Morgando. Ah, va bene, allora non le chiedo opinioni su questo. È comunque un'intervista che mi ha colpito, anche questa, perché Walter Veltroni ha mantenuto un lungo silenzio. Oggi esce anche lui, non accodandosi a quella che chiama la tendenza Conte Ugolino, cioè mettersi a rosicchiare la testa del nuovo teschio del leader all'indomani delle elezioni, perché dice: l'ho subito questo atteggiamento, non lo voglio alimentare. Però anche lui, insomma, dice: mettiamo la sconfitta, il partito, la sconfitta è seria, il partito può rinascere se è aggressivo e popolare. Questo aggressivo bisogna intendersi, Morgando, perché il refrain delle prime ore è diventato imparare dalla Lega, che insomma... l'ho sentito anche ieri tutta la serata declinata con Dario Fo in televisione, sto parlando sempre di Tetris. Imparare dalla Lega, Gianfranco Morgando, quando si rappresenta in Piemonte un partito come quello a cui testa lui, è un po' tostarella come sintesi, o no? Ma adesso, non so se dobbiamo imparare dalla Lega o no, secondo me su questo diciamo così si esagera sempre un po'. Io penso che noi abbiamo due problemi. Uno è probabilmente quello espresso dalla lettera dei 49 senatori di cui ha parlato Gian Piero Scanu prima, che è quello di definire in modo più preciso il profilo politico, il profilo culturale del Partito Democratico, perché il consenso, diciamo così, lo si conquista anche nella misura in cui si costruisce una identificazione in qualche modo prepolitica con le posizioni, le ambizioni, le aspirazioni, i messaggi di fondo di un partito. E poi abbiamo sull'altro versante il problema dell'iniziativa politica concreta, che è anche organizzazione, che è anche presenza sul territorio, che è radicamento, che saper sollevare problemi e discutere questioni che stanno a cuore alla gente. Secondo me le due cose non sono scindibili. Sono però anche due problemi che non si risolvono in pochi mesi, per cui adesso io francamente riterrei ingeneroso oggi porre dei problemi di leadership nel Partito Democratico. Credo che ci sia, questo vale a livello nazionale, vale a livello regionale, credo che ci sia l'esigenza di essere consapevoli che ci troviamo all'indomani di una sconfitta, che è una sconfitta molto dura, anche perché le sconfitte si rapportano anche alle ambizioni della vigilia, e noi avevamo indiscutibilmente ambizioni importanti. Credo che si tratti di capire che, diciamo così, per costruire il nostro futuro dopo la sconfitta bisogna risolvere i due problemi che dicevo prima, no? E che bisogna lavorare in quella direzione tirando tutti la carretta, perché non si può fare diversamente. Rispetto a quello che lei diceva, cioè una politica più aggressiva, Io penso che è un po' l'esperienza piemontese. Noi abbiamo impostato una campagna elettorale molto all'attacco, e molto all'attacco in particolare nei confronti della Lega. Ora, non è che questo non abbia premiato, credo che abbiamo fatto bene a farla. Noi cercavamo di sottolineare come una presidenza leghista in Piemonte fosse in qualche modo in contraddizione con le esigenze di una grande regione che ha nella sua apertura nazionale ed europea l'elemento che può caratterizzare il suo futuro. Credo che abbiamo fatto bene, però non c'è dubbio che il risultato è stato deludente. Posso farle due osservazioni da torinese e piemontese, ma questo mi consente semplicemente di seguire con più attenzione nel tempo, non perché ovviamente il Torino e Piemonte noi lo mettiamo in testa tutto e il resto d'Italia no, ma però per capire, al di là della campagna elettorale, c'è chi ha osservato il problema del PD su due punti concreti: è un problema di voler tenere insieme due atteggiamenti che alla fine nel voto la Lega invece scioglie di solito a favore di una posizione netta. I due esempi sono la TAV da una parte, che lo sappiamo tutti, in Piemonte ha avuto un certo peso nel rafforzare a sinistra le componenti di rappresentanza nelle valli, e questo ha avuto purtroppo l'esito poi di far perdere alla fine, perché poi di questo si tratta, perché quei votarelli lì delle liste Grillo, per quanto non sia giusto dire colpa vostra, ognuno prende la rappresentanza puntando su una posta, però l'effetto poi è anche quello. Dall'altra l'esempio della Fiat, perché da una parte si dice il PD è diventato una forza responsabile, quindi ha un atteggiamento in cui dialoga, si confrontano le sedi istituzionali, dal sindaco alla provincia di Torino, alla regione, con l'azienda, senza avere più i vecchi toni di un tempo e cavalcare la spinta antagonista dell'essere contro, a prescindere da tutto, da quello che deve fare un'azienda che deve stare sui mercati, contro l'azienda. Dall'altra parte, così facendo però, non è più presente dove comunque quelli incazzati, perché poi la Fiat vuole ridurre e chiudere, vanno con chi si incazza e li rappresenta nell'incazzatura, e dall'altra non hanno neanche poi in mano il timone davvero di riuscire a condizionare l'azienda. Faccio l'esempio Fiat, perché a Torino è sempre caso di farlo. Su questi due esempi qua ha ragione chi dice scegliere un atteggiamento chiaro, radicale o di governo, però sceglierne uno, ma non tentare di averne due, perché tanto sennò si perde da tutte e due le parti, o bisogna invece continuare, secondo lei, a essere responsabili e di protesta, ma fino a un certo punto? Ma no, io credo che in entrambi i casi, io penso, in entrambi gli esempi che lei ha fatto, io penso che il problema sia individuare qual è la soluzione giusta e cercare di fare in modo di spiegare che questa soluzione giusta corrisponde agli interessi di tutti. Tema TAV e Valle di Susa. Noi abbiamo sostenuto, anche insomma, andando sul territorio, abbiamo un problema di rapporto con i nostri amministratori, perché tutti hanno un problema del rapporto con la loro base su quel territorio, perché la diffidenza nei confronti di questa grande opera sul territorio è un fatto naturale, non la preoccupazione per un lungo cantiere, la preoccupazione per l'impatto. E noi siamo andati su quel territorio a spiegare che secondo noi la realizzazione di questa grande opera corrispondeva non soltanto, diciamo così, a degli interessi e delle strategie generali, ma corrispondeva anche all'interesse di quel territorio, perché sarebbe stata l'occasione per una grande riqualificazione, per un grande, diciamo così, intervento capace di far ripartire processi di sviluppo in quella valle, no? Allora, a me pare che non ci sia contraddizione tra guardare alla, diciamo così, alla protesta come manifestazione di un disagio e costruire delle soluzioni di interesse generale che rispondano anche a questa protesta. E naturalmente, nella chiarezza delle posizioni, noi abbiamo sempre detto che il PD ritiene che quell'opera bisogna farla. Sul tema Fiat, io credo che il problema sia quello di capire come la presenza di una grande industria che continua ad essere il perno intorno a cui si organizza il sistema produttivo della nostra regione può essere una occasione per uno sviluppo futuro, e come questa, diciamo, la prospettiva e il futuro di questa azienda corrisponde agli interessi di tutti, anche dei lavoratori di questa azienda. È un po' diplomatico rispetto alla domanda che avevo fatto. Lo capisco, però lei capisca anche che c'è tanta gente, lo dico perché arrivano moltissimi messaggi di elettori del centro-sinistra che dicono meglio partire dal presupposto di cosa cambiare piuttosto che spiegare di quello che abbiamo fatto. Perché quello che abbiamo fatto ci abbiamo creduto tutto, l'abbiamo fatto fino all'ultimo momento di campagna elettorale, però se non è servito bisogna aggiungere qualcosa in più. Adesso io la interrompo, non è una critica, ma semplicemente per indirizzare poi il resto del dibattito, perché dobbiamo parlare anche dell'effetto che sul PD hanno sti benedetti giornali. Perché, insomma, il Partito Repubblica e il Fatto non sono proprio due elementi così lontani da determinare i toni della politica della sinistra e poi le sconfitte più che altro fino a questo momento della sinistra, perché li si induce a essere più duri radicali e poi li si sanziona perché non lo si è stati abbastanza. Chiaro che si vendono copie, i giornali servono a questo, però poi sulla politica si producono effetti che a mio giudizio sono devastanti. Ecco, quindi io sono dell'idea più che con questi giornali non vince la sinistra, più che con questa politica non vince la sinistra, forse con tutte e due, ma insomma il ruolo dei giornali non è così secondario. Ora pubblicità e torniamo con i nostri ospiti giornalisti e poi con Morgando, perché Scano ci ha dovuto lasciare. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua in questo proseguo di trasmissione, stiamo parlando, spero fino a questo momento con toni rispettosi, sia per i dirigenti del PD, per gli iscritti, per i militanti, chi lo ha votato, perché il rispetto è una cosa essenziale, però del dopovoto, di una sconfitta, chiamiamola col nome giusto, e di che cosa fare. Abbiamo fatto parlare il promotore Gian Piero Scanu, senatore del PD, di questa lettera che ha raccolto 49 firme tra i senatori del PD, in cui chiede a Bersani un cambio di passo, cioè di affrontare concretamente i temi delle diverse anime del partito, toni più adeguati e più chiarezza rispetto ad apparire al traino dell'agenda altrui, cioè quella Berlusconi. Dice: fino a questo momento abbiamo approvato, votato contro ovviamente, ma abbiamo fatto nostra l'agenda dei decreti del governo. Abbiamo sentito Morgando, segretario regionale del PD del Piemonte, intorno alle difficoltà e di tenere insieme un linguaggio e un obiettivi contemporaneamente molto diversi da quelli della maggioranza, della componente della maggioranza che nel nord si estende sempre di più e che ha sempre più successo, anche per la chiarezza, talvolta della sua spregiudicata chiarezza con cui sa parlare agli elettori, cioè la Lega. Chiedo invece ai nostri due ospiti, cioè innanzitutto a Riccardo Barenghi e poi a Paolo Franchi. Torniamo a uno dei punti del dopo voto immediato esploso sui giornali della vicini alla sinistra. Ha ragione, chiedo a Riccardo Barenghi, ha ragione chi dice, come ha fatto il Fatto, che con questi, cioè con questa leadership politica del PD e del centro-sinistra non si vincerà mai, quindi andiamo ai giovani, a quelli più radicali, a quelli che poi prendono i voti e non fanno tante mediazioni? Oppure ha ragione chi dice no, è con questi giornali che cavalcano l'estremismo, danno il tono estremista alla politica, e poi gli italiani in realtà sono moderati del centrodestra, quindi non seguono questi toni, e questi stessi giornali che chiedono alla sinistra di essere sempre più radicali, e poi l'indomani puntano il dito contro la leadership invece che puntare il dito allo specchio contro se stessi, e cioè contro i toni che Repubblica e il Fatto hanno sempre, visto che poi gli italiani non li seguono. Riccardo, chi è che ha più ragione? Chi dice che con questi leader non vince la sinistra mai, o con questi giornali non vince la sinistra mai? Ma secondo me hanno torto tutte e due, perché io non credo al fatto che le elezioni si perdano grazie o a causa di giornali che poi vendono qualche centinaia di migliaia di copie, quindi non fanno testo da questo punto di vista. Oltretutto, voglio dire, Repubblica è un giornale molto schierato col PD, quindi semmai ha cercato di dare una mano al Partito Democratico. Il Fatto, insomma, venderà 100.000 copie, non lo so, mi auguro per loro, va benissimo, è un grande fenomeno editoriale, però insomma non è su quello che si può misurare il fallimento, la sconfitta o la vittoria di un partito politico che dovrebbe essere è grande, insomma abbastanza grande, importante, c'è una lunga storia, almeno una storia delle anime che lo... Io penso che invece la ragione sia, e neanche diciamo adesso largo ai giovani, quali giovani? Se ci fossero dei giovani in grado di prendere la guida del partito, beh insomma ormai si facciano avanti, cioè non è possibile che ogni elezione si dica fuori vecchi che poi sono cinquantenni, massimo sessantenni, e largo ai giovani, questi giovani non esistano, oppure siamo compressi all'ombra dei loro leader di riferimento. Quindi se i giovani ci sono, prendano, come si diceva una volta, diano la stazza in quartier generale e prendano il potere, ma secondo me non è nemmeno questo il problema, si diceva prima, le diverse anime o animelle che compongono il PD, ecco, ci sono tante anime e non c'è un'anima. però non ce n'è una che emerga, non si capisce quale adesso si possono usare parole abusate, scusate il bisticcio, l'identità, la linea, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Però dici tu un'anima calda, univoca, vera, di fondo non c'è. Beh, non c'è, e non, comunque non è, non c'è, tant'è che non è riconoscibile dagli elettori. Allora uno si chiede, io mi chiedo se, me lo sono chiesto tante volte in questi ultimi anni, se sia stato una cosa giusta o un errore far nascere il Partito Democratico, appunto mettere insieme queste tante anime e poi non avere un'anima. Vedo che un po' di animelle in questi ultimi mesi se ne sono andate però non hanno risolto il problema, perché poi chiunque sia il leader del Partito Democratico, l'ha dimostrato Veltroni, l'ha dimostrato Franceschini, lo sta dimostrando Bersani, alla fine è costretto al ma anche o il ma neanche, perché poi adesso Bersani è stato anche, diciamo, preso in giro su questo, dal ma anche al ma neanche, non è una vittoria ma neanche una sconfitta. Veltroni aveva centrato la sua leadership sul ma anche, siamo con gli operai ma anche con gli imprenditori, siamo con quello ma anche con quell'altro. Ecco, è costretto questo Partito Democratico a questo gioco qui, e questo gioco qui non funziona, perché se uno è per la TAV però ma anche non tanto cattiva, per la Fiat ma no ma anche con gli operai eccetera eccetera, non comunica niente, comunica un'indecisione di fondo e una non scelta. Allora io penso che da quello che dovrebbe il Partito Democratico imparare dalla Lega è esattamente quello che la Lega ha imparato da gli antenati del Partito Democratico, cioè dal PC e in qualche modo anche dalla DC, cioè stare, come si dice anche qui con una frase abusata, nel territorio, stare tra la gente, capire che cosa vuole la gente e cercare di dargli delle risposte che non siano demagogiche, radicali, estremiste, ma che siano delle risposte. Però dici tu anche prendendo in considerazione l'ipotesi di tornare a separarsi, per essere chiari. Beh, questo ormai più che separarsi, sai, mi pare che un po' di separazioni ci sono state, adesso che vuoi fare? Non voglio anche qui usare un'altra parola, insomma rischia di diventare la cosa dell'atomo, perché insomma siamo al 26% e che vuoi separare? Beh, non esageriamo, non siamo ancora alla cabina telefonica ho capito, certo, era un'esagerazione, è un po' provocatoria, però insomma non mi pare che ci sia più niente tanto da separare, quanto invece da unire su una linea. Poi se qualcuno non ci sta, il problema è che non sanno che linea prendere, ma che linea, non sanno nemmeno chi è la loro gente, se c'è ancora la loro gente, o è un magma indistinto che ognuno, appunto, che riflette un po' quelle tante anime animelle del Partito Democratico, diciamo l'elettorato. Ma lì più di tanto non vai, perché che vuoi fare? Veltroni oggi dice un partito coraggioso, come dice aggressivo, però aggressivo per dire che cosa? Essere aggressivo vuol dire essere più anti-berlusconiani? Può essere aggressivo finché continuano a fare un'opposizione di governo, perché questo è il PD, no? Un'opposizione responsabile, quindi un'opposizione di governo, quindi non fa né l'opposizione né il governo, anche perché il governo non ci sta. E questo è un po', io non è che ho una ricetta, magari se ce l'avessi, come dire, mi candiderei, ma no, non ce l'ho una ricetta, capisco che è complicato, però politici di professione e di lungo corso. Gli si chiede di averla, altrimenti... Gli si chiede di averla, perché adesso leggo sui giornali di oggi che adesso dicono a Bersani, lo stesso D'Alema, anche Veltroni, insomma bisogna stare sulla trincea delle riforme istituzionali e il presidenzialismo. Ora io penso che del presidenzialismo alla stragrande maggioranza degli italiani e alla stragrandissima maggioranza degli elettori del PD non gliene freghi niente, non è questo il problema. Allora se si buttano sempre sul politicismo spinto, continuano a fare l'errore che li porta poi ad avere... Io devo dire la verità, questo tema appena toccato da Riccardo Barenghi, il politicismo spinto, è un tema molto forte, perché moltissimi messaggi che stanno arrivando da quando abbiamo aperto la trasmissione ci dicono preferiamo ascoltare, questi sono elettori di sinistra evidentemente, preferiamo ascoltare i rappresentanti di Grillo o di Di Pietro perché ci parlano di cose concrete, mentre qui si parla di alchimia alchimie, di anime, di vecchie questioni di leader della FGC di 30 anni fa, che da sempre si succedono negli successivi 25 anni, da dopo Natta alla leader alla guida del partito. Di tutto questo però quello che risulta è che è meno concreto rispetto ai temi aperti. Poi naturalmente c'è chi è per l'acqua, che è contro l'acqua, i temi che sono aperti nella sinistra radicale, però insomma ci si dice quella almeno è una cosa concreta. Io non lo so se così si costruisca un'alternativa di governo, mi sembra di no, però devo rispettare che gli ascoltatori questo mi dicono. Chiedo a Paolo Franchi: è davvero così trascurabile o secondario l'impatto che a lungo andare grandi giornali come Repubblica hanno avuto nello sbozzare di volta in volta, ma a colpi di martello sembra a me, perché è stato decisiva di volta in volta nelle successive leadership, dai DS, PDS, poi al Partito Democratico Repubblica, li ha indicati, li ha quasi scelti, li ha, non dico legittimati, ma a volte sì, li ha proprio scelti facendo nomi e cognomi i leader che dovevano succedersi l'uno all'altro. È così davvero ininfluente, perché come giusto e nota Riccardo, poi alla fine i giornali li legge una minoranza di già orientata in Italia e non sono quelli a fare il tono del dibattito politico. Cosa pensi? Sentivo prima Riccardo, se la domanda è Repubblica, Il Fatto, altri giornali influenzano il voto di milioni e milioni e milioni di italiani, la risposta è ovviamente no. Certo. Se la domanda è c'è, e non da oggi, una forte influenza di questi giornali, anzitutto nel dare il tono, no, del confronto politico all'interno del PD, ma poi volevo fare un riferimento al passato tra un attimo, e a intervenire sulle leadership, ad aprire e chiudere le crisi politiche interne e via dicendo, la risposta è fortissimamente sì, cioè sono due discorsi diversi. E io sono d'accordo, esatto. Allora, facendo questo secondo discorso, Il Fatto è una specie di proiezione estrema, voglio dire, di Repubblica, no? Sono quelle tematiche portate alle estremissime, mi si consente l'errore grammaticale, conseguenze. E per quello che riguarda Repubblica, ma sai, qui il discorso sarebbe lunghissimo, è un discorso che inizia addirittura negli anni Ottanta, no? Perché da quando comincia, negli ultimi anni di Berlinguer, un punto, da quando il PC, diciamo, smarrisce il filo del suo discorso storico, di quello che faceva grosso modo dal 44, e si ritrova un po', per usare un'espressione cara ai firmatari della lettera dei 49, bisognoso di un supplemento d'anima, insomma l'anima comincia ad arrivare da lì, insomma. E quindi è un discorso molto lungo, non è un discorso che comincia negli ultimissimi anni, e l'anima che si propone è quella lì, insomma. Ieri fu selvaggiamente contro Craxi, dopo è stata selvaggiamente, diciamo, sul terreno dell'antiberlusconismo. In questi ultimi mesi che cosa ha determinato? Ha determinato l'idea che noi non è che fossimo di fronte a un declino della capacità di leadership piena, indiscussa, di Berlusconi sul complesso del centrodestra italiano, ma che fossimo alla vigilia di un tracollo del berlusconismo, e che il punto di Berlusconi, del berlusconismo, del centrodestra, è che il punto fosse dargli il cazzotto risolutivo. Sì. Anche nella valutazione del voto, io ho provato a scriverlo ieri sul Corriere, poi mi sono riletto, perché non vorrei che essere interpretato così come un critico difensore di Bersani, però voglio dire, anche nell'interpretazione del voto è successo qualche cosa, perché se quest'esito del voto, il 26%, prendere 7 regioni su 6, andare sul filo di lana a Roma, dove è vero che non c'era la lista del PDL, ma ricordatevi come era uscito di scena la giunta Marrazzi. Cioè la sintesi del discorso è: il risultato viene anche drammatizzato, perché non è una vittoria, ma non è una sconfitta così tragica, ma lo diventa perché l'aspettativa era stata quella di in realtà fare la sepoltura a un Berlusconi oramai travolto dalle indagini, eccetera, eccetera. E rispetto a questo che c'è poi il tono dell'eccesso, quasi di sconfitta. Certo, quindi è rispetto. Adesso non voglio attribuire lo schifini a nessuno. No, no, no, chiaro. La valutazione è ovvio che si valuta il risultato elettorale rispetto alle aspettative. Allora, è ti devo interrompere solo perché c'è il minuto sulla informazione stradale, riprendiamo di qui con Paolo Franchi. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, avevamo interrotto Paolo Franchi che diceva e rispetto a questa atmosfera che era stata gli ultimi mesi, quelli in cui Berlusconi travolto dalle indagini, Trani, Bertolaso, eccetera, rispetto a questo, che quindi aveva fatto immaginare di un Berlusconi con un piede nella tomba politica, è ovvio che il risultato poi è molto diverso, pur non essendo questo tracollo assoluto per il PD. È un risultato negativo, ma mi sembra che la discussione, il confronto, le eventuali guerre intestine, siano tutte impostate, cioè c'è il permanere evidente di una difficoltà e di una crisi. Il vero problema di queste elezioni non è se hanno preso il 26 o il 27%, visto che nessuno pensava che il PD potesse prendere il 40%. Il vero problema di queste elezioni, ma come era ovvio peraltro, come era scritto prima e nei fatti, è che queste elezioni restituiscono non solo uguale, ma ingigantiti le due grandi questioni su cui il PD sbatte la testa fin dalla sua nascita, diciamo, che sono la questione, per dirla in una parola, dell'identità, e la seconda è, io continuo a credere, la questione delle alleanze. Vedo adesso Veltroni, Franceschini, tutti questi. Ma l'idea che queste due questioni fossero scavalcabili in nome della cosiddetta vocazione maggioritaria, che poi insomma era una sindrome d'autosufficienza che aveva il PD, come il ben noto Rospo, il PD potesse, senza esplodere, potesse ingigantirsi fino a prendere la maggioranza del voto degli italiani. E vocazione maggioritaria o sindrome d'autosufficienza, che avevano solo una deroga, ed era una deroga per Di Pietro, come fu nelle elezioni del 2008, una deroga a mio parere suicida, queste due questioni non è che avevano posto sulla una buona base il PD e che poi da questa base si è erroneamente io credo all'origine delle... Di tante difficoltà. Identità, che significa anime, quello di cui abbiamo sentito parlare sia da Giampiero Scanu che poi da Morgando e poi da Riccardo Barenghi, e alleanze, perché se uno è maggioritario poi non può fare eccezione solo Di Pietro, perché gli regala il quorum, e di lì il fatto che poi Di Pietro è protagonista grazie a un quorum che senza quell'alleanza, punto interrogativo molto forte, per me risolutivo, non lo avrebbe avuto. Però detto questo, e poi oggi con elezioni regionali in cui si è tentato di giocare contemporaneamente tre carte diverse a seconda delle regioni, quella dell'alleanza con l'UDC, su questo si è pure fatto alle primarie perdendole D'Alema in Puglia, come sappiamo, e poi ha vinto invece Vendola, quella invece di un tentativo di ricostruire in alcune regioni l'alleanza ex Unione Ulivo, chiamatela come volete, e quella invece poi altrove di avere un rapporto di Pietro sì, Grillo no, eccetera. Sono tre strade diverse che convivono, e certo una nota di chiarezza non c'è. Sentiamo quello che alcuni ascoltatori ci chiedono rispetto a tutto questo garbuglio di temi. Cominciamo con Roberto da Roma. Prego Roberto. Buongiorno a tutti. Volevo fare una riflessione ad alta voce, una riflessione sul linguaggio, come appunto lei poc'anzi diceva. Il linguaggio della sinistra, almeno degli esponenti di sinistra che tendenzialmente sento, è sempre al condizionale: dovremmo fare, bisognerebbe fare, sarebbe opportuno fare. E questo anche quando sono al governo, cioè quando hanno il potere effettivamente di fare, parlano sempre al condizionale. Cosa che vedo che accomuna il linguaggio degli esponenti di centrodestra: facciamo, stiamo facendo, abbiamo fatto. Non vorrei fosse una forma mentis, cioè il discorso che la sinistra ama parlare, ma poi al lato pratico concludono poco. E questo probabilmente è dovuto al discorso della litigiosità e delle diverse anime che compongono il partito. Beh, Roberto, io devo far osservare che all'interno del PDL di litigiosità non se n'è vista poca, voglio dire, prima delle elezioni e in relazione ad alcune note vicende tipo la lista di Roma, temo che la litigiosità fosse una componente che forse esagerando, è stata considerata quella che stava portando l'esperienza di Berlusconi verso una svolta finale, ma finale, cioè un periodo in cui c'era solo da decidere quanto a lungo era la fine, mentre invece è questa poi la cifra che gli italiani hanno detto no a questo, e questo è, consegna al governo adesso 3 anni di fattiva e molto forte posizione, e su questo non so quanti ci scommettevano prima. Cioè Berlusconi in 7 giorni dalla piazza di Roma in poi ha fatto la differenza in Piemonte e nel Lazio, cioè poco da fare, lui più che il partito, perché era unito, parlava l'indicativo, almeno questa è la mia opinione. Raffaello da La Spezia, sentiamo Raffaello, che pensa lei? Salve, il PD evidenzia non più i programmi diventati secondari, ma giornali, piazza, vedi l'esempio di Moretti passato, magistrati, talk show, anti-berlusconismo, questi rappresentano il PD negli occhi della gente, e poi tutte queste election day per eleggere segretari, candidati del Partito Democratico. Cioè lei ha nostalgia di un partito più partito, insomma. Ma troppi segretari, non ci si capisce niente. Da Occhetto in poi i leader cambiano ogni anno e mezzo, 2 anni. Si mandano in pensione persone di qualità. Vedi il Berlinguer che presentò una riforma della scuola. È stata dimenticata quella riforma, è stato dimenticato quell'uomo di valore e come lui tanti altri. Si buttano nel cesto le persone prima ancora questi abbiano potuto programmare qualcosa. Grazie Raffaello. In Raffaello sento parlare l'eco di una certa tradizione, per così dire, e quindi qui torniamo a uno dei temi di cui diceva Barenghi, forse più che mettere insieme anime che non riescono poi a parlare una lingua condivisa, un'anima aveva una parola chiara e un linguaggio chiaro, come l'altra anima, quella dei cattolici di sinistra nella DC, ce n'aveva un'altra, e per il momento ecco qui c'era in Raffaello credo l'eco di una di queste anime, quella prevalente nella storia della sinistra italiana, che diceva quella però era un'anima chiara, precisa, non buttava nel falò le leadership. Giancarlo da Torino, sentiamo che pensa Giancarlo. Pronto? Dica. Sì, buongiorno, Giancarlo da Torino. Senta, a parte il fatto che sto lavorando in cantiere per strada, il problema è dunque, in casa mia hanno tutti la tessera, siamo tutti tesserati per il PD, però sinceramente a sentire il tono dei due rappresentanti di Morgando e dell'altro del PD, sinceramente... Rispetto prima di dire qualunque cosa, cioè che cosa ha provato? No, è il tono, cioè dimesso, sconfitto, senza, non ho capito nulla, sinceramente non si capisce nulla, preferisco sinceramente sentire i grillini come li ho sentiti ieri o Di Pietro, piuttosto che sentire rappresentanti del genere, che non mi dicono niente, sinceramente non li ho capiti, non li seguivo, capisce? E il problema è che parlano politichese, non sono in mezzo alla gente. Questo è il guaio. Il guaio è che non c'è una posizione, come dicevate voi prima, non c'è una posizione, ci sono troppe posizioni e non c'è nessuna posizione. È una grande confusione, sinceramente. E poi manca proprio la... Grazie Giancarlo, ha detto chiaramente. Io l'avevo anticipato, Morgando è ancora con noi? Sì, certo. E io l'avevo anticipato che non solo da Torino, ma questo era il tono un po' della cosa. Allora le chiedo, tento di dare un nome e un cognome. Non era il caso di sentire un po' di più Chiamparino, che mi sembrava più vincente? Adesso lei non può rispondermi sì o no su questo, però è per dare a casa anche un nome e un cognome a chi chiede chiarezza, compostezza e anche capacità di governo, perché Chiamparino nessuno gli nega tutte queste cose qua. Ripartire da lui oppure un pochino più di radicalità e aspettare e vedere? Che dice? Ma, 2 cose. La prima... Noi abbiamo governato 5 anni il Piemonte, l'abbiamo governato con Mercedes Bresso, l'abbiamo governato bene, non c'erano ragioni per cambiare il candidato alla presidenza. Il risultato è un risultato di sconfitta che io riconosco, ma abbiamo perso per lo 0,3%, 0,4%. Sì, 4.000 voti. Abbiamo preso appunto alcune migliaia di voti in meno, insomma, quindi è una sconfitta molto dura, anche perché le sconfitte, come qualcuno diceva prima, si rapportano sempre con le aspettative precedenti e noi pensavamo di vincere, ma insomma siamo andati sostanzialmente in parità, quindi non c'erano, diciamo così, le ragioni per dire dobbiamo cambiare il candidato presidente. Io credo che l'ascoltatore che ho sentito dica delle cose giuste. Molte volte il nostro linguaggio è difficilmente comprensibile, anche perché è più facile agitare dei problemi senza indicare delle soluzioni che non provare a fare dei ragionamenti intorno ai problemi. Credo però che noi dobbiamo cambiare in 2 cose. la prima, una maggior semplicità nel dire le cose, una maggior chiarezza, una maggior nettezza nel dire, e la seconda? Nel dire le cose, e la seconda è diciamo così, una maggior capacità di affrontare i temi della rappresentanza del territorio. Ok, e noi su questi due impegni di Gianfranco Morgando, secondo me sarà tutto il PD che dovrà discuterne, spero in soluzione di chiarezza, perché sennò si slabbra il tutto. Devo dire, la maggioranza e il governo e Berlusconi hanno avuto la forza di conquistarsi il loro diritto in 3 anni a sopravvivere. Io devo dirvi la verità, anche se arrivasse un ordine di cattura, una richiesta di cattura, non me lo escludo, la magistratura radicalizzerà ulteriormente, penso che Berlusconi potrà andare avanti dopo questo esito del voto. Lo hanno dato per morto prima del tempo, i moderati hanno detto neanche per idea, continua a governare il PD, su questo dovrà ragionare. Ringrazio quindi Gian Piero Scanu e Gianfranco Morgano insieme a Paolo Franchi e Riccardo Barenghi, Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, Linea Generale Radio, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente. Yeah.